Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Zitti, che siamo in ultime ore della campagna elettorale, possiamo, ma ci sono dei babbuini in lista? Vabbè, Federico, non farmi essere cattiva, cioè babbuini in lista, i babbuini veri, diciamo, specie. La specie, i primati, mi pare di no. No, non ti pare, vabbè, comunque noi incominceremo col tagliando del macchinone di Ginevra e poi arriviamo alle chiamiamo le strategie riproduttive, sì, via. Cioè, parliamo di relazioni extraconiugali, va? Sì, di come non farsi beccare più. Anche tra i babbuini, bonobo e scimpanzé. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo. LHC fa il tagliando. Il grande acceleratore del CERN si ferma fino al 2015. A caccia di corpi celesti, sarà questo il futuro della ricerca spaziale? L'asteroide appena passato pare valesse 195 miliardi di dollari. I bonobo sono libertini, gli scimpanzé sono più pudichi, i babuini invece sono fedifraghi, ma con discrezione. Parliamo delle strategie sessuali dei primati e non solo. La psicologia deve spiegare i nostri comportamenti collettivi. Questa è la proposta per un nuovo scenario di ricerca. Per esempio, qual è la psicologia dell'evasore? Colla dalle cozze. Potrebbe essere l'adesivo più potente mai progettato. Vi ho detto poco fa, prima dei titoli, che il grande macchinone va a fare un tagliando. Il grande macchinone è l'LHC di Ginevra, che noi abbiamo sempre amorevolmente seguito, e per parlare, insomma, di questa sosta abbiamo, come sempre, spesso perlomeno, il direttore di ricerca al CERN di Ginevra, che è Sergio Bertolucci. Buonasera Bertolucci. Buonasera, sono contento di tornare. Era un po' che non ci sentivamo, perché poi c'erano stati grandi successi, sì. Però questo tagliando, questa sosta era assolutamente prevista. Sai che cosa penso sia interessante capire? Se, e noi abbiamo usato un po' scherzosamente questo termine tagliando, ma c'è qualcosa effettivamente in una macchina di questo genere che col tempo si usura? Perché se bisogna mettere mano a qualcosa, ci sono, che ne so, degli attriti, dei pezzi, si pensano che siano da ricambiare per via dell'uso, ma lì voi avete grandissime energie, ma quantità di materia praticamente infinitesima. Che cos'è che bisogna rivedere e ripulire un po'? Il motivo principale per cui ci fermiamo, questa fermata era pensata già da molto tempo, era addirittura pensata prima che partisse LHC per la prima volta, perché lei, come si ricorda, la partenza di LHC era stata molto spettacolare, ma poi c'era stato uno stop altrettanto spettacolare, perché fuoriuscita. Le connessioni tra i magneti non erano fatte a regola d'arte. Ebbene, lo scopo principale di questa fermata, di questa lunga fermata e questo lungo tagliando, è di permettere alla macchina di raggiungere la sua energia di progetto, che è 14 TeV, miliardi di electron volt, cioè di energia. Adesso siamo a 8 TeV e possiamo andare a 14, ampliando enormemente la possibilità di scoperta di questa macchina, di esplorazione di questa macchina. E infatti volevo arrivare a questo: un pezzo non è un tagliando, ma è un miglioramento. Un tagliando migliorativo. Esatto. Insieme a questo c'è il fatto che dopo 3 anni di funzionamento, e di funzionamento al di là di ogni nostra possibile ottimismo, perché la macchina ha funzionato in una maniera incredibile che ci ha permesso di anticipare la scoperta, ad esempio, del bosone di Higgs, noi vogliamo anche fare la manutenzione a tutte le componenti di questa macchina, perché, come giustamente ha detto, la quantità di materia che acceleriamo è minuscola, però la tecnologia per arrivare a questo invece è molto macroscopica. Faccia conto che, ad esempio, tutto il sistema criogenico, che è il più grande sistema criogenico mai fatto al mondo, ha compressori alti quanto palazzine di 3 piani, e questi hanno attriti, hanno parti che devono essere revisionate, Essere grande raffreddamento di tutto l'anello, no? Lei sta dicendo, sì, per esempio, sì. Certo. Ci sono tutto il sistema elettrico, tutto il sistema di dei convertitori di potenza che servono per mandare la corrente ai magneti, e che alla fine immagazzinano in questi magneti 2 miliardi di joule di energia, che sarebbe un po' l'energia di una grossa portaerei che va a 30 nodi, tanta roba. Enorme, tanta roba. Di nuovo hanno bisogno di manutenzione, perché malgrado lì non ci siano attriti, ci sono un sacco di componenti che ad esempio risentono il fatto che degli shock termici, degli shock di radiazione, di tutte le cose che vengono dopo 3 anni di operazione. Diciamo, le sollecitazioni più forti che ha la macchina sono sempre intorno al caldo e il freddo. Caldo, freddo e radiazione. E radiazione. C'è un sistema di ultravuoto che ha bisogno di mantenere dentro la macchina un vuoto 10 volte migliore di quello che si trova nello spazio profondo, e anche questo ha bisogno che tutti i componenti, tutte le pompe a vuoto, tutti gli accoppiamenti, le valvole, ogni periodo devono essere messe in manutenzione, perché una parte di queste, per una parte di queste la manutenzione vuol dire cambiarle, perché il loro periodo di vita è finito. Quindi c'è anche proprio molta meccanica di base consolidata, sì, addirittura. Sì, c'è moltissima meccanica di base, ma meccanica di altissima precisione, appunto di ultravuoto, tutta la meccanica dei compressori che servono poi per comprimere e espandere l'elio, per raffreddarlo. Ci sono i cavi, che la gente non pensa che poi... I cavi anche hanno un tempo di vita, perché i cavi, il loro isolamento pian piano viene danneggiato di nuovo dagli shock termici o anche dalla radiazione. Le chiedo velocemente, non dico il giorno e l'ora, ma quando è che riprendiamo? Noi riprendiamo con la macchina a ottobre del 2014 e ricominceremo a fare fisica con una macchina nuova praticamente, perché sarà una macchina che può arrivare a un'energia molto più alta, aprendo enormemente la nostra capacità di scoperta, agli inizi del 2015. Probabilmente ci sentiremo prima per altri obiettivi, sì, ai quali state pensando, però con il macchinone ci sentiamo fra un anno e mezzo. Grazie e buon lavoro. Va bene, buon lavoro anche a voi, grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma tradiscono di più i bonobo o gli scimpanzé? Anzi, dovrei dire le bonobo. No, allora Federico, non anticipiamo niente, perché adesso diamo la parola alla nostra primatologa di fiducia, perché torna a trovarci Elisabetta Palagi. Intanto benvenuta e bentornata. Salve a tutti. Buonasera Elisabetta. Allora, del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, ma anche dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. Allora, questa volta non ti chiamiamo per una tua ricerca, come di solito accade, perché sappiamo che stai lavorando, non è che sei lì. Però questa volta ti chiamiamo per una ricerca di colleghi sudafricani e mi sembra anche etiopi, per cui hanno fatto delle ricerche sui babbuini gelada e sul loro rapporto, diciamo, tra maschi e femmine e sulle loro relazioni anche extraconiugali. È stato appena pubblicato su Nature Communications e insomma, Elisabetta, a te la parola. Intanto, chi sono i babbuini gelada? Dunque, i babbuini gelada sono una specie di babbuini, anche se molti ritengono che si differenzino parecchio dalla linea proprio evolutiva dei babbuini, che vivono sugli altipiani etiopici, quindi diciamo ad alte quote, intorno dai 2000-3000 metri. Quindi diciamo è una specie un po' peculiare di scimmia, no? Siamo abituati nella concezione classica a pensare alla scimmia come un animale di foresta. Invece questa specie è distribuita in ambienti molto diversi. Diciamo che dopo svariati decenni in cui il babbuino gelada, chiamiamolo gelada per essere più precisi, è stato un pochino, come dire, dimenticato per quanto riguarda la ricerca etologica, negli ultimi anni sta invece avendo un notevole successo. Ci hanno lavorato parecchio, diciamo. Sì. Noi lavoriamo sul gelada in cattività, perché lavoriamo su cose un po' più cognitive, quindi abbiamo bisogno di una situazione più controllata, mentre altri gruppi di ricerca, anche dell'Università del Wisconsin, ha progetti in natura, perché si occupano di, diciamo, quel lato del comportamento più legato alle variabili ecologiche. In questo caso, in questa ricerca, mi sembrava fossero in natura? Sì, sono in natura in questa. Diciamo in che famiglia. Hanno trovato quello che in altre specie di scimmie già si sapeva, e cioè ecco. Che ci sono dei maschi che ruotano in gruppi monomaschili, in piccoli gruppi monomaschili, intorno a gruppi dove invece ci sono anche le femmine, che tentano degli accoppiamenti, e qualche volta ci riescono, degli accoppiamenti clandestini con le femmine che appartengono all'harem di un maschio dominante. Ecco, sono circa il 9% di queste relazioni, chiamiamole così, extraconiugali, via. Sì, sì, il 9%, ma addirittura questa cosa è stata scoperta svariati anni fa anche nel gibbone. Il gibbone è una specie monogamica, quindi praticamente c'è una coppia, diciamo abbastanza fedele tra virgolette, e invece si è scoperto tramite appunto analisi genetiche e osservazioni comportamentali che le femmine anche nel gippone tendono un po' a tradire il compagno. E tra l'altro da questo studio mi pare che venga fuori anche un aspetto curioso, che loro tendono, cioè capiscono che c'è qualcosa che non è proprio normale, diciamo così, e quindi un po' si nascondono, non emettono alcuni suoni che invece quando sono col maschio dominante emettono, insomma si nascondono. Che i maschi riescono, emettono le cosiddette copulation calls, cioè i richiami durante la copula, durante l'accoppiamento, e sembra che durante gli accoppiamenti clandestini, quindi non quelli diciamo formali e ufficiali, queste vocalizzazioni vengano emesse o con toni molto più sommessi, chiamiamoli così, oppure vengano addirittura eliminate, proprio per evitare di essere scoperti. Dal maschio dominante, che sennò gli fa un mazzo, vero? È vero. Se poi in realtà la punizione scatta quando chiaramente il maschio se ne accorge. Però poi è stato visto che in realtà queste punizioni sono ben poco efficaci, perché chiaramente gli altri continuano. Ecco, ma scusami Elisabetta, ma va bene, è chiaro che anche per noi, insomma, in generale, l'emissione di versi che possa raggiungere il vicinato è da evitare se c'è un tradimento. Ma però vuol dire anche che si nascondono, perché uno che non emette versi ma è lì in mezzo a tutti gli altri si vede subito che tradisce, quindi cosa fanno? Vanno dietro dei massi? Esatto, cioè no, trovano delle situazioni consone al tradimento completo. Esatto. Questa è una, ora io lavorando in cattività e quindi non avendo bachelor group, cioè gruppi monomaschili, queste cose non le ho mai viste nel gelada, però le ho viste abbondantemente ad esempio nello scimpanzé, addirittura con i maschi giovani del gruppo. Lo fanno anche loro, anche gli scimpanzé si nascondono. Cioè voi ragazze andate con dei minorenni. È la femmina che adesca, andate con dei minorenni, pazzesco. Il maschio più giovane se lo porta via lontano dal, diciamo, il campo visivo del dominante. Si vergognano un po'. Invece i più libertini, diciamo, dal non punto si vergognano, hanno paura. Cioè, è inutile, anche voi ragazzi, c'è sempre questo mito che il maschio è cacciatore, però che caccia? No, hai ragione. Cioè, caccia le ragazze. Sono entrambi consenzienti. Se no, hai ragione. Con chi va? Con i frigoriferi? No, invece tra i primati, i più libertini, mi pare, Elisabetta, che invece siano i bonobo, cioè non si vergognano non c'è tanto. Non c'è assolutamente bisogno di fare niente, nel senso che la promiscuità è tale, diciamo, il gioco di intrecci sessuali che non necessariamente nel bonobo si parla di contatti sessuali di tipo riproduttivo, perché sì, però il 90% dei contatti sessuali del bonobo non hanno scopo riproduttivo, essendo per la maggior parte costituiti protetti da coppie omosessuali. Quindi lì invece c'è il massimo del libertinaggio, e quindi diciamo che queste strategie, no, di un pochino alternative possono essere tranquillamente praticate. Certo che sì, avviene tutto tranquillamente alla luce del sole. Chissà perché queste differenze, veramente poi strano. Anche il significato un po' evolutivo, quindi lo fanno non per riprodursi. Allora a questo punto viene fuori una sorta di comportamento che viene fatto per piacere, per cosa? Dunque, viene fatto sicuramente per piacere, perché ad esempio è stato visto che da studi particolari che femmine che si piacciono particolarmente durante il contatto omosessuale emettono delle vocalizzazioni più acute, quindi c'è anche tutto un filone di ricerca riguardo a questa parte qua. La cosa però che emerge, diciamo, in modo abbastanza chiaro è che quanto più le femmine scambiano contatti sessuali, giocano insieme o fanno grooming, che è quella particolare toilettatura del pelo molto rilassante, sono proprio femmine amiche che, diciamo, si aiutano nei momenti di particolare difficoltà. Quindi, diciamo, il sesso non riproduttivo nel bonobo viene visto un po' anche spesso in quello che è per noi, no? Un momento piacevole, ma in cui il legame emozionale e è fortemente rinsaldato, no? Anche perché ricordiamoci che nel mondo dei primati esporre la parte genitale è anche un giochino pericoloso, nel senso che se l'altro soggetto a cui tu esponi questa parte delicata non risponde in modo fair, quindi in modo onesto, puoi rischiare anche una ferita, un morso. Quindi è una grande prova di fiducia che si danno gli animali in modo reciproco. Senti, tu hai detto una roba un po' strana prima, e cioè nei momenti di due bonobo, maschi, femmine, anche solo femmine, che si danno una mano in momenti di difficoltà, che certo, molte cose insomma dell'amore, della sessualità hanno per esempio un senso, no? Nei momenti di difficoltà della vita di noi, quello che noi conosciamo, ma cosa vuol dire nel caso loro? Diciamo l'esempio più classico, quello che salta subito agli occhi stando davanti a un gruppo di animali, se uno guarda con un occhio un po' attento, chiaramente, non parlo del visitatore distratto che insomma si limita a guardare il sedere rosso di queste scimmie, ridere e andare via, ma se uno guarda con un pochino più di attenzione si rende conto che ad esempio durante un'aggressione la decisione, l'esito dell'aggressione stessa viene deciso da quanti animali mi supportano in quel momento, sia che io sia vittima o che sia aggressore, quindi il supporto agonistico in questa specie è molto importante, perché non è tutto acquisito per dominanza, ma le relazioni di dominanza e il successo all'interno del gruppo è determinato proprio da quanti animali, stavo per dire persone, ma insomma, da quanti animali riesco a farmi amici. E questo è, infatti è per questo che si parla di politica di scimpanzé e politica di bonobo, perché molto dipende dai giochi e dalle strategie in cui rientra appunto anche il sesso, no? Che riesco a mettere in atto per riuscire a garantirmi il maggior appoggio possibile. Quindi c'è un su e giù nella loro vita a seconda di come vanno dei momenti critici e dei momenti, i confronti tra di loro, le dinamiche critici, di gruppo. Ma addirittura anche nello stesso gruppo la presenza o assenza di un solo soggetto può determinare il disequilibrio. E questo accade anche nell'uomo, se ci pensiamo. Pensiamo a un gruppo di ragazzini che giocano insieme. Un conto se la relazione è a due, un conto se è a tre. Tutte le relazioni e il tipo di interazioni devono essere riviste. Se si perturba il sistema togliendo un esemplare o un altro, perché cosa che accade spesso ad esempio in cattività, quando alcuni animali vengono scambiati tra parchi per garantire appunto il successo riproduttivo, no? E quindi per fare in modo di evitare l'inbreeding, quindi l'accoppiamento tra parenti, nonostante i bonobo accolgano sempre in modo benevolo i nuovi, a differenza degli scimpanzé, però c'è bisogno dopo un po' di tempo di una ristrutturazione nelle relazioni sociali, e questo basti pensare anche nel nostro ambiente di lavoro: come arriva un collega nuovo vanno riviste tutti gli equilibri sociali, no? È vero. O quando nasce un bambino in una famiglia si rivede tutto, no? E quindi è una cosa che accade tranquillamente anche nel mondo dei primati non umani. Tu lo ricordavi prima una cosa, che forse ho capito quello che volevi dire? No, ogni volta che parliamo con Elisabetta mi sembra che loro siano sempre più umani o che noi siamo sempre più simili a loro, non so. Quello dipende dai punti di vista. Ecco. Voi fra colleghi ormai ve lo fate il grooming? Ma no. Grooming proprio no. Però insomma diciamo che soprattutto fra femmine siamo abbastanza legate e vi nascondete dietro quindi, i massi, diciamo, la società è molto simile a quella del bonobo, quella che c'è nel mio ufficio. Deformazione professionale. Grazie Elisabetta, allora a prestissimo. Grazie a voi, buon lavoro, ciao. Grazie anche a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La psicologia spiega i nostri comportamenti, anche i comportamenti collettivi. Noi nei titoli abbiamo detto che questa è la proposta per un nuovo scenario di ricerca, perché sì, è vero, lo sappiamo che la psicologia si applica anche ai comportamenti collettivi, però qui si vuole sottolineare molto di più questo aspetto, comportamenti collettivi. E allora, per spiegarvi bene quanto intensamente si può andare in questa direzione, ebbene, questo, in questa puntata di Mebius affrontiamo proprio questo tema, e quindi vi presento i miei due ospiti. Franco Del Corno, buonasera Del Corno. Buonasera. Psicologo e psicoterapeuta, docente di modelli e metodi di intervento psicologico e anche docente all'Università della Valle d'Aosta. E poi anche Luigi Ferrari, buonasera Ferrari. Buonasera. Docente di psicologia economica e del lavoro dell'Università Bicocca. Lei è appena uscito con un suo saggio che è psicologia fiscale. Fiscale. Allora, io stavo dicendo prima, e parto da lei, del corno, che certo lo sappiamo che la psicologia non si occupa solo del comportamento singolo soggettivo, però voi, un piccolo gruppo, ma che siete, mi pare, combattivo, volete insistere su qualcosa che di una dimensione molto più forte a questo invece interesse di ricerca sui comportamenti collettivi. Ci dica cosa significa. Ma significa che noi crediamo che la psicologia possa dare un contributo utile, non soltanto, come già sta accadendo da molti anni, e credo che questo sia una consapevolezza assolutamente acquisita, nei confronti di comportamenti individuali, come strategia per comprendere questi comportamenti e anche eventualmente per intervenire quando si manifestino delle condizioni di disagio o di sofferenza. Certo. Dobbiamo anche ricordare poi che la psicologia non si occupa solo del singolo individuo, si occupa anche di istituzioni, ad esempio la psicologia scolastica, delle organizzazioni produttive, la psicologia del lavoro. Però lo sguardo che noi abbiamo in mente è più diretto alle realtà collettive, i funzionamenti sociali, la possibilità di una psicologia dei fenomeni politici, delle relazioni internazionali, dei conflitti fra gruppi, dei conflitti etnici, che spazi in una dimensione che è attualmente presente anche in letteratura e alla quale si dedicano alcuni colleghi, ma finora in una misura abbastanza sporadica, mentre noi riteniamo che la psicologia potrebbe dare un contributo molto importante se questo approccio alle dimensioni della collettività e dei grandi gruppi diventasse un approccio più consolidato e più diffuso. Ma perché qui mi pare che voi vogliate fare una chiamata forte, come per esempio in tante ricerche ambientali abbiamo dei gruppi e degli scienziati e delle scienziate che si sono impegnate perché ritengono che ci sia un'urgenza, e non solo un motivo di conoscenza, c'è un'urgenza, no, rispetto ai problemi dell'ambiente. Voi in fondo fate una chiamata alla esigenza di capire i comportamenti collettivi, e adesso sentiremo appunto Ferrari quando per esempio noi siamo degli evasori fiscali, no? Per esempio, oppure in altre situazioni come quelle della guerra e della pace, ecco, no? C'è una chiamata storica. Certo, diciamo, consolidare un indirizzo, un trend, come si usa dire, che è già presente fra i colleghi a livello internazionale, ma che, come dicevo prima, a nostro giudizio non è sufficientemente diffuso e richiederebbe un maggiore impegno e anche da parte dei psicologi un addestramento per acquisire delle competenze che siano più indirizzate. In questa area, piuttosto che le competenze ormai consolidate, acquisite, che sono relative ai piccoli gruppi, alla famiglia, eccetera, e anche al comportamento individuale. Noi ne parleremo anche in altri momenti e anche nelle prossime trasmissioni, perché è uno scenario decisamente interessante. Siete un gruppo piccolo, ma che però, insomma, vorrebbe crescere, sta facendo delle proposte interessanti che vedremo. Ecco, appunto, allora, chiamato in causa del corno, Ferrari, per esempio, che cosa vuol dire psicologia fiscale? Beh, dunque, intanto premetto che sono completamente d'accordo con amico e collega Franco Del Corno, cioè la dimensione individuale è stata molto ben studiata dalla psicologia finora, adesso si tratta anche di vedere la dimensione collettiva. Beh, la psicologia fiscale c'è stata ancor prima della psicologia in senso proprio, nel senso che i primi economisti che hanno studiato l'economia capitalistica borghese hanno sottolineato, a cominciare da Adam Smith, che era importantissimo valutare accanto agli aspetti oggettivi naturalmente dei tributi, anche i comportamenti e i vissuti soprattutto dei contribuenti nei confronti dell'imposizione fiscale. E la psicologia fiscale in fondo è questo, studia come le persone percepiscono e reagiscono ai tributi e di conseguenza come si comportano, non solo come, diciamo, dei contribuenti razionali, che cioè fanno dei calcoli di convenienza, Ma come tante altre cose. Ecco, questa in sintesi estrema è la psicologia fiscale. E c'è tutto anche un filone di psicologia, anche questo si sta sviluppando, ma probabilmente mi direte deve svilupparsi molto di più, che si interessa proprio di come noi, quando siamo cittadini e collettività, ci interfacciamo con l'economia, le scelte di tipo economico. Anche lì avvengono delle cose stranissime, sembra, no, che ci sia del corno della razionalità, invece siamo spesso tremendamente irrazionali. credo che la psicologia possa dare un contributo veramente importante nell'analisi dei cosiddetti processi decisori, no? Continuamente ci sono in atto delle prese di decisione da parte dei singoli individui, ma anche da parte dei vertici che controllano determinate realtà organizzative, che sono soltanto apparentemente razionali e in realtà sono influenzate da componenti emotive, spesso nemmeno molto consapevoli, che acquisiscono un'importanza decisiva. Ecco, allora, gli psicologi da tempo si interessano delle prese di decisione, di come vengono realizzate, di quali sono le variabili in campo, di quali sono i parametri che vengono seguiti, e credo che riflettere su questi argomenti sarebbe veramente fondamentale per capire meglio taluni meccanismi di funzionamento della nostra società. Mi viene in mente un esempio flash che faccio molto rapidamente: i meccanismi di funzionamento della borsa, ad esempio, io credo che andrebbero indagati anche da questo punto di vista, e in realtà non lo è mai stato fatto a fondo. Sì, questo l'ho sentito dire da molti, ed effettivamente quello è un universo sul quale bisognerebbe metterci della ricerca per capire cosa succede nelle teste delle persone che ci entrano dentro. Ecco, ma ritorno a lei, Ferrari. Beh, insomma, proprio nell'ultimo anno sappiamo quanto rilevante sia stato il rapporto di noi tutti con questo problema delle tasse fiscali, non solo al momento ma anche in prospettiva. Qui certo c'è una grandissima emotività, razionalità più o meno distorta, no? che entra in campo. Dalla sua ricerca, per esempio, lei ha trovato dei comportamenti strani, dei segnali, insomma, su cui ragionare? Ah beh, tantissimi. Le faccio un esempio, ma è solo un esempio. Recentemente abbiamo pubblicato, io e un collaboratore, dottor Randisi, abbiamo pubblicato un articolo su una rivista internazionale. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle osservazioni sul comportamento dei contribuenti, in particolare di un nostro economista dell'inizio del Novecento, Puviani, e abbiamo provato a fare degli esperimenti per vedere se aveva ragione. E tra le altre cose abbiamo verificato, perché la scoperta è stata di Puviani, abbiamo verificato che la sopportabilità dei tributi varia moltissimo, dello stesso tributo, quindi a parità di spesa, varia moltissimo a seconda del modo con cui è presentato al cittadino il tributo stesso. Certo. E quindi attenzione, perché non è soltanto la sopportabilità, ma è tutto ciò che deriva dalla sopportabilità che ha rilevanza, e cioè per esempio il consenso alle classi dirigenti, che cambia a seconda della percezione della sopportazione, diciamo, dei tributi. Certo, e voi psicologi sapete perfettamente, no, che quando si va ad analizzare i comportamenti individuali, la motivazione per certi fatti di vita che ci arriva dalla vita stessa è qualcosa che cambia enormemente le nostre reazioni, no, del corno. L'attività in ambito clinico ci ha insegnato moltissimo sui processi di decisione normali e patologici, però finora queste competenze non sono state ancora applicate in un modo incisivo ai fenomeni, sì, ad esempio, ai quali accennava poco fa Luigi Ferrari. Le faccio un esempio rapido: domani si apre a Padova un congresso internazionale che si occuperà della violenza di genere. E questo congresso sarà organizzato attorno anche a delle sessioni di psicodramma. Lo psicodramma è una tecnica psicoterapeutica che si fa in gruppo. Queste sessioni di psicodramma saranno realizzate non soltanto in piccoli gruppi, ma anche in gruppi allargati, e si cercherà di utilizzare la competenza relativa alle dinamiche di gruppo e la nostra competenza clinica per affrontare un problema che, lo sappiamo tutti, è diventato oggi un problema cruciale e drammatico in molti paesi, compreso il nostro, che è quello della violenza, nella fattispecie verso le donne, ma poi c'è anche il problema della violenza omofobica, eccetera, eccetera. Eh sì, ce n'è un bel po'. Ecco, allora ci fermiamo qui, e però annunciamo che entriamo dentro questo potenziale ambito di ricerca, che effettivamente, insomma, se potesse produrre delle cose che ci diano degli strumenti per vivere meglio nella dimensione collettiva, sarebbe davvero grande cosa. Franco Del Corno e Luigi Ferrari, buonasera, ci sentiamo presto e buon lavoro. Grazie. Gentile signore e signori che lavorate nel campo dell'innovazione, perché avete una startup oppure un'azienda che lavora anche da tempo, penso di poter aggiungere un'azienda piccola che però ha delle buone idee, vuole provare a trovare una partnership importante, insomma inventori in genere, anche freelance, basta che non stiate lavorando a una macchina per il moto perpetuo. Bene, scriveteci moebius@radio24.it, moebius@radio24.it. È partito un progetto di Open Innovation, ne abbiamo già parlato qui in trasmissione un paio di settimane fa, ne può uscire qualcosa di interessante per il vostro futuro. Allora la mail la ricordo, moebius@radio24.it. E poi, beh, dovete scriverci anche per le vostre domande. Ne abbiamo ricevuta una che ci ha aperto un interrogativo inquietante. Che cosa serve il singhiozzo? Micidiale, cercheremo di rispondere. Gli indirizzi ai quali mandare le vostre domande sono sempre moebius@radio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook che è Moebius Scienza. C'è anche Twitter moebius_online. E questo è tutto per le vostre attività epistolari con noi. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'asteroide che è passato vicino. Sì, è quello che ci ha sfiorato settimana scorsa, il 2012 DA14, l'abbiamo conosciuto perché è passato, mi sembra il punto più vicino, erano 27.700 chilometri nel punto però più vicino, era un asteroide del diametro di circa 50 metri. Bello grasso. E pesava 130.000 tonnellate e andava bello forte. E poteva valere? E poteva valere 195 billion dollar, cioè miliardi di dollari. Perché? Perché è stato calcolato dalla Deep Space Industries che se noi riuscissimo a catturare gli asteroidi che ci sfiorano, diciamo che passano vicino alla Terra, sacco di soldi. Potremmo fare un sacco di soldi. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato un esperto per capire se questo fosse fantascienza o meno. E allora, qui con noi stasera c'è Giovanni Valsecchi. Intanto, buonasera. Buonasera. Lei appartiene all'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, che appartiene al grande gruppo dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ecco, allora ci dica lei, è verosimile questa roba per cui si riesca a catturare un asteroide ed eventualmente farci su anche dei soldini? Allora, che si riesca a catturare un asteroide mi sembra un'impresa tecnologicamente estremamente difficile, perché c'è da dissipare una quantità di energia inimmaginabile a scala umana . E quindi il fatto che si riesca poi a rientrare dei soldi spesi per sviluppare le tecnologie per catturare un asteroide credo che sia alquanto dubbio. È comunque interessante e affascinante che se ne parli. Ecco, perché vanno ad una velocità molto, molto sostenuta, insomma. Esattamente, gli oggetti che passano vicino alla Terra si muovono con una varietà di moti molto grande, molti di loro vanno veramente tanto tanto tanto veloci. Se noi pensiamo che un proiettile di fucile, di pistola, di cannone viaggia a meno di 1 km/s quando esce dalla bocca da fuoco, e invece questi oggetti di cui stiamo parlando vanno a decine di chilometri al secondo, forse, e hanno masse poi del tutto incomparabili con quelle di un proiettile, ci rendiamo conto della difficoltà del problema. Ma questo calcolo allora che è stato fatto, che senso ha? In realtà che senso ha e soprattutto qual è il valore di un asteroide? Perché vale così tanto? Varrebbe, diciamo, visto che non riusciamo a prenderlo. Sì, allora si pensa che negli asteroidi ci siano materiali che sono rari sulla Terra, per esempio il famoso iridio, che è un materiale che è stato trovato, se forse ricordate, in degli strati che sono diffusi su tutta la Terra e che ci ha dato l'indicazione che la fine dei dinosauri potrebbe dovuta, sì, esatto, potrebbe essere dovuta alla caduta di un asteroide. Quindi l'idea è che se questo materiale vale tanto dobbiamo metterci le mani sopra. Io non sono così sicuro che chi ha fatto partire queste intraprese abbia fatto un calcolo dettagliato di cosa significa fermare un asteroide. Certo, ci possono essere asteroidi su orbite, fra virgolette, fortunate, nel senso che con poca spinta, poca, sempre stiamo parlando di cose gigantesche, si riesce a rallentare in modo tale da poterlo far entrare in orbita intorno alla Terra, ma questi sono rari e non è detto che abbiano la composizione giusta, magari sono fatti di materiali del tutto non interessanti. Perché pensando a una... insomma, qui vengono in mente molti film... dove abbiamo un sistema solare attraversato da tantissime spazionavi, astronavi. Beh, insomma, certo, anche le astronavi possono raggiungere nel vuoto grandissime velocità. Si potrebbe pensare di avvicinarsi lentamente a un asteroide, di cominciare a estrarre cose, però mi sembra che anche questa immagine qui, probabilmente, per quanto pensiamo un mondo evoluto tecnicamente, forse quel discorso del bilancio costi-ricavi salta comunque. In generale, nella navigazione spaziale si può fare uno scambio fra velocità da raggiungere, e quindi distanze da percorrere, e tempo a disposizione. Il problema è che si possono anche raggiungere distanze molto lontane, come hanno fatto le sonde Voyager, o velocità molto alte, come fanno le sonde che vanno verso il sistema solare interno. Il problema sono i tempi. I tempi possono diventare molto molto lunghi. Quando diventano sufficientemente lunghi non sono più interessanti economicamente, perché, come sa, i macroeconomisti dicono nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi che c'è sì, abbiamo sempre quel problema lì del tempo. No, infatti questo calcolo della Deep Space Industry, che era stato anche ripreso da Wired America, in realtà era un mero calcolo, penso, sul contenuto di metalli più un calcolo della perdita, di quello che necessariamente perdiamo, perché non possiamo utilizzarlo. Ecco, è passata una valigia di dollari. Miseria, sotto il naso, e non riusciamo a tirar fuori niente. È così? Di buono. Sì, temo che sia così, perché appunto io mi sono solo, prima ho solo criticato l'aspetto come lo fermiamo, poi bisogna vedere come estraiamo la roba, e poi bisogna vedere come la portiamo a terra, Certo. E alla fine di tutta questa catena poi riusciamo a piazzarla sul mercato a un prezzo ragionevole, forse si rientra delle spese, a meno che non si sia andati falliti prima, certo. Cosa che mi sembra più probabile. Però forse effettivamente scavando su questi pianeti oppure sulla Luna, insomma, forse lì invece una certa industria estrattiva vantaggiosa si potrebbe recuperare. È tutto da vedere, è, ma in effetti queste cose sono interessanti, perché sono sostanzialmente una fase che corrisponde a quella delle grandi esplorazioni fatte con le navi a vela nel XVI-XVII secolo. Cioè si va alla scoperta, si troveranno tante cose che poi si riveleranno non interessanti, e magari tante che invece diventeranno addirittura quotidiane per noi. E senta, allora approfittiamo della sua presenza per fare un po' di ordine, nel senso che settimana scorsa, tra asteroidi, meteoriti, piogge di meteoriti sulla Russia, ecco, ci può dire in maniera abbastanza semplice, insomma, farci capire che differenza c'è tra quelli che arrivano, quelli che passano e ci sfiorano? Ah, la nomenclatura è una di quelle cose su cui si sbizzarriscono gli esperti, nel senso che se un oggetto è abbastanza piccolo, diciamo, non è una cosa di chilometri, eccetera, si viaggia nello spazio e non lo osserva nessuno, allora il nome appropriato da dargli, secondo i libri di testo, è meteoroide. Se poi questo oggetto entra nell'atmosfera terrestre, si incendia, produce il fenomeno luminoso che noi chiamiamo meteora. Se poi sopravvive qualcosa e arriva a terra, diciamo che il meteoroide va in pensione, fra virgolette, come meteorite, e va a finire nei nostri musei o nelle mani di qualcuno o su un mercatino. E ci arriva, ce ne sono tanti di meteoriti. Sì, un continuo. Che sono stati in passato meteore per un breve flash, diciamo, il loro canto del cigno, e hanno fatto il resto della loro vita a spasso per il sistema solare come meteoroidi. Se poi vengono anche visti da un telescopio, allora diventano asteroidi, che è il caso di 2008 TC3, quello che è caduto in Sudan nel 2008. Appunto. Che però non dipende dalla massa, quindi? No, asteroide, ecco. Significa semplicemente che è un oggetto puntiforme in movimento, osservato telescopicamente. Se invece l'oggetto non è puntiforme ma è esteso, si chiama cometa. Poi la sua vera natura fisica ha molto poco, cioè ha a che vedere con tutto questo, ma ci sono un sacco di discussioni, ma che differenza c'è fra cometa e asteroide? Dal punto di vista della definizione è semplicemente se l'oggetto è esteso o non è visto nel telescopio. Cioè, nomi diversi a seconda delle situazioni, sì, di oggetti identici. Esattamente. Va bene, però era importante far chiarezza. Meteoroide mi è piaciuto molto. Sì. Grazie mille davvero, Valsecchi, buon lavoro. Prego, grazie. Buona a voi, serata, buon lavoro. Arrivederci. Ma tu mi hai mandato una mail dicendo che siete ancora sotto la neve. Sì, c'è ancora una montagna di neve qua. Però se non c'è l'elettricità, insomma, noi ci sentiamo via Skype, hai una chiavetta. Sì, sfido le intemperie e riesco ugualmente a raccontarvi quello che succede qui a Boston. Da Boston, sotto la neve, lo sappiamo, a Boston però in contemporanea a questa grandissima nevicata, qualche metro che copre le case, c'è anche l'assemblea annuale dell'Accademia delle Scienze americana, che è anche un grande appuntamento di scienze in generale, e Paolo Arebusco, sommersa dalla neve, adesso ci parla di cozze. Sulle cozze, come... oggetti interessanti per via della loro capacità di incollarsi. Di incollarsi però agli scogli, in che senso può essere interessante in generale dal punto di vista della collosità? Hanno delle proprietà adesive incredibili che cambiano in ambienti diversi e poi questi materiali hanno anche ispirato la produzione di nuove supercolle sintetiche. Uno dei partecipanti al simposio era il professor Herbert White, professore di biologia all'Università di Santa Barbara in California, e uno dei pionieri degli studi sull'adesività delle cozze, perché appunto le cozze si attaccano, come dici tu, a materiale organico e inorganico come minerali, scogli, anche superfici metalliche, legno. Si attaccano grazie a una specie di radice che si chiama bisso. Le fibre che costituiscono il bisso sono prodotte da delle ghiandole poste alla base del piede della cozza. Non ti stupisci? Io non sapevo che le cozze avevano i piedi, avessero dei piedi. E infatti, cioè, pensavo a una colla che fosse una colla, insomma, di quelle, cioè, morbide e plasticose, mentre invece è una cosa più complicata, ci sono come delle radicine. Sì, funziona così, perché questo piede, questo muscolo, ti ho mandato una fotografia che possiamo mettere su Facebook. Che mettiamo questo su piede, Facebook, sì. Questo piede si allunga, per esempio, fino a toccare lo scoglio, poi c'è una ghiandola che secrete una sostanza proteica e questa sostanza si indurisce e forma dei filamenti che sono proprio solidi e resistenti. Sono dei filamenti che hanno uno spessore di tipo 3-10 capelli umani, ma resistono, hanno una resistenza incredibile. Basti pensare, non so, alle cozze che vengono investite da onde che vanno a 30 km all'ora e non si staccano. Sì, certo, questo è vero, ma anche chiunque abbia tentato poi di tirarle via con delle mani sa quanto è difficile. Ma da questi filamenti si può tirar fuori qualcosa che poi mettiamo nelle nostre applicazioni terrestri? Una cosa per volta. Prima parliamo di questo professor White, che è uno dei ricercatori che ha studiato l'architettura, la struttura proprio e la chimica del bisso, dei filamenti, e ha scoperto che un determinato aminoacido, che ha un nome complicatissimo ma in breve si può chiamare DOPA, questo aminoacido svolge un ruolo chiave nella produzione del bisso, anche se il processo esatto non è ancora chiarissimo. A questo punto poi è intervenuta una professoressa dell'Università di Washington, Emily Carrington, e ha parlato dei suoi studi su come la tenacità di queste fibre sia influenzata dalle condizioni ambientali. Va bene. Perché il suo gruppo di ricerca, per esempio, ha scoperto che un aumento della temperatura del mare di 7 gradi centigradi diminuisce la resistenza del 60%. Ah, pensa tu. E non solo, anche l'aumento di anidride carbonica dissolta nell'acqua cambia l'acidità e questo diminuisce la qualità delle fibre. Va bene, va bene. Adesso abbiamo capito cosa fanno le cozze quando fanno le cozze, ma cos'è che dobbiamo tirar fuori noi dal punto di vista dell'utilizzo di questo strumento che loro hanno per incollarsi a qualcosa? Allora, le cozze, oltre ad essere buone, hanno un ruolo critico comunque nell'ecosistema acquatico, perché innanzitutto funzionano come dei filtri naturali, pulendo l'acqua di elementi indesiderati, poi provvedono un substrato su cui alghe e larve si possono attaccare, e inoltre sono il cibo di aragoste, granchi, anemoni e pesci vari, per cui questi studi possono aiutare a preservare l'ecosistema acquatico anche quando ci sono fluttuazioni esterne come il riscaldamento globale. Ah, ok, li usi come misuratori di alterazioni, per esempio, della temperatura del mare, va bene. Sì, per quello, e poi bisogna capire anche, per esempio, come aiutare le cozze a sopravvivere se ci sono dei cambiamenti climatici molto grandi, perché se le cozze non sopravvivono, poi tutto l'ecosistema è fuori equilibrio. Vabbè, ma qui la collosità non arriva mai. No, non finisce qui, perché sono interessantissime. Il bisso, quest'ancora fibrosa delle cozze, ha ispirato la produzione di materiali sintetici che contengano l'aminoacido DOPA. Vai. E quindi hanno simili proprietà, sono dei super materiali, delle super colle. E c'era Philip Messermith, che è professore di ingegneria biomedica alla Northwestern University, e ha spiegato i progressi fatti nello sviluppo di materiali, in particolare con applicazioni mediche. Per esempio? Per esempio, si possono utilizzare dei materiali per richiudere le arterie nel corso di operazioni, per riparare il sacco amniotico se si rompe. Il sacco amniotico è il sacco, la membrana sì. che protegge il feto. Queste proteine sintetiche imitano le fibre prodotte dalle cozze, per cui hanno la resistenza. C'è il vantaggio che si solidificano in fretta, perché se si sta facendo un'operazione si vuole qualcosa che agisca subito. E quindi questi materiali sintetici, ad esempio, si solidificano nel giro di un minuto. E anche come costo di produzione sono, diciamo, i super adesivi, le super colle basate su altri principi hanno dei costi di produzione molto più alti, mentre queste colle, per ora è tutto sperimentale, però poi dovrebbero essere anche più economiche, più semplici. Grazie Paola, liberati dalla neve, vedi se sotto ci sono cozze. Ciao Paola. Ciao. Niente collanina di iridio, perché costa troppo. Niente, Chiara. Niente, va bene, abbiamo parlato di un sacco di cose, bella puntata, ci sentiamo la settimana prossima. Qui fra 7 giorni, buona settimana a tutti e a tutte.